4C. Ascolta e trasforma. Sono arrivati ieri. È arrivato ieri. Sono partiti ieri. È partito ieri. Sono stati bene. È stato bene. Sono stati a scuola. È stato a scuola. Sono arrivate ieri. È arrivata ieri. Sono partite ieri. È partita ieri. Sono state bene. È stata bene. Sono state a scuola. È stata a scuola.